Capitolo 14. Una festa di compleanno riuscita. Era quello che Susan definiva un inverno striato. Tutto si scioglieva e si gelava e teneva Ingleside decorata con frange di fantastici ghiaccioli. I bambini davano da mangiare a 7 ghiandaie azzurre che venivano regolarmente nel frutteto per le loro razioni e si lasciavano avvicinare da Jem. Invece con gli altri volavano via. Anna in gennaio e febbraio restò alzata intere notti a studiare attentamente cataloghi sulle sementi. Poi i venti di marzo turbinarono sopra le dune e lungo i porti e sopra le colline. I conigli, disse Susan, stanno lasciando le uova di Pasqua. Marzo non è un mese incitante, mamma? Gridò Jem, che era il fratello minore di tutti i venti che soffiavano sull'Ingleside. Si potevano risparmiare l'incitamento di Jem, che, graffiatosi la mano con un chiodo arrugginito, se la passò brutta per qualche giorno, mentre zia Mary raccontò tutte le storie di avvelenamento del sangue che avesse mai sentito. Ma quello, rifletté Anna, passato il pericolo, era ciò che ci si doveva aspettare con un figlio piccolo che continuamente sperimentava. Ed ecco, era aprile. Con la risata delle sue piogge, il sussurro delle sue piogge, gocciolamenti, ripuliture, passaggi, frustate, danze, spruzzate della pioggia di aprile. Oh, mamma, il mondo non ha una faccia bella e pulita dopo una lavata! Esclamò Dee il mattino del ritorno del sole. C'erano delle pallide stelle primaverili che brillavano sui campi nebbiosi e i salici gatto nella palude. Anche i piccoli rami degli alberi improvvisamente sembravano aver perso la loro rigidità invernale per diventare morbidi e languidi. Il primo petirosso era un evento. La conca era ancora una volta un luogo pieno di gioia libera e selvaggia. Jem portò a sua madre i primi Mayflowers, abbastanza da offendere zia Mary, poiché pensava che dovessero essere offerti a lei i primi. Susan iniziò a ordinare gli scaffali della soffitta. E Anna, che aveva avuto ben poco tempo per sé durante l'inverno, indossò la gioia come un abito primaverile e letteralmente si trasferì a vivere in giardino, mentre Gamberetto mostrava le sue estasi primaverili contorcendosi lungo tutti i viottoli. Ti curi più del giardino che di tuo marito, Annie, disse zia Mary. Oh, il mio giardino è così gentile con me, rispose Anna con aria sognante. E poi, rendendosi conto delle conseguenze che potevano esserci per la sua affermazione, iniziò a ridere. Dici delle cose proprio stravaganti, Annie. Naturalmente so che non intendi che Gilbert non sia gentile, ma cosa succederebbe se un estraneo ti sentisse dire una cosa del genere? Oh, cara zia Mary, disse Anna gaiamente, veramente io non sono responsabile per le cose che dico in questo periodo dell'anno. Tutti lo sanno qui intorno. Sono sempre un po' pazza in primavera, ma è talmente sublime la follia. Non ti accorgi che quelle nebbie sulle dune sembrano delle streghe che ballano? E i narcisi? Oh, non abbiamo mai avuto prima un simile spettacolo di narcisi a Ingleside. Non mi sono mai preoccupata molto dei narcisi. Sono una tale ostentazione, disse zia Mary. Drappeggiatosi lo scialle intorno alle spalle, se ne andò in casa per proteggersi la schiena. Sa, signora dottora cara, disse Susan minacciosa, cosa ne è stato dei nuovi geggioli che voleva piantare in quest'angolo all'ombra? La signora zia li ha piantati questo pomeriggio quando lei si è allontanata un attimo e proprio nella parte più soleggiata sul retro del cortile. Oh, Susan, e non possiamo neanche rimuoverli perché si offenderebbe. Oh, se solo me lo permette, signora dottora cara. No, no, Susan, per carità, per il momento lasciamoli lì. Piangeva, ti ricordi, quando ho accennato al fatto che lei non avrebbe dovuto potare la spirea prima della fioritura? Oh, ma oltraggiare così i nostri narcisi, signora dottora cara, che sono famosi a chiunque giù al porto. E meritano di esserlo. Guardali come ridono di te e che badi a quello che dice zia Mary. Susan, tuttavia i nasturzi stanno venendo su in quest'angolo. È un tale divertimento quando abbandoni la speranza di trovare una cosa e questa improvvisamente appare. Ho intenzione di avere un piccolo giardino di rose e di farlo proprio nell'angolo sud-ovest. Il nome stesso giardino di rose mi dà i brividi alle dita dei piedi. Hai mai visto un simile azzurro? Proprio color del cielo, prima d'ora, Susan? E se ascolti con molta attenzione di notte è possibile sentire tutti i rivoletti della campagna. Spettegolare. Ho una mezza idea di dormire nella conca questa notte con un cuscino di violette selvatiche. Ci troverà molta umidità, disse Susan pazientemente. La signora dottore era sempre così in primavera. Beh, sarebbe passata. Susan, disse Anna in modo accattivante, voglio fare una festa di compleanno la settimana prossima. Beh, perché non dovrebbe? Chiese Susan, certa che nessuno della famiglia aveva il compleanno nell'ultima settimana di maggio, ma che se la signora dottora voleva fare una festa di compleanno, poteva benissimo farlo. Oh, per zia Mary, continuò Anna, determinata ad arrivare subito al peggio. Il suo compleanno è la settimana prossima. Gilbert dice che compie 55 anni ed è questo che ho pensato. Signora dottora cara, davvero ha intenzione di fare una festa per quella? Conta fino a 100, Susan, conta fino a 100, Susan cara. Le farebbe piacere. Che cosa ha nella vita, dopo tutto? Oh, è solo colpa sua. Forse è così. Ma Susan, ho veramente voglia di fare questo per lei. Signora dottora cara, disse Susan minacciosa, lei è sempre stata gentile dandomi una settimana di riposo ogni volta che ne avevo bisogno. Sento che ora me ne serve una. Chiederò a mia nipote Gladys di venire ad aiutarle. E poi la signora zia potrà avere una dozzina di feste e compleanno, anche se io non ci sono. Se lo fai solo per quello, Susan, rinuncerò all'idea, naturalmente, disse Anna lentamente. Signora dottora cara, quella donna si sta imponendo su di lei e ha intenzione di restare qui per sempre. Crea preoccupazioni, sottomette il dottore come se lei fosse la moglie, rende amara la vita dei bambini. Io non dico niente di me. Chi sono io? Lei sgrida, critica, insinua, piagnucola e ora si vuole farle una festa di compleanno? Beh. Tutto quello che posso dire è, se vuole farla, non ci resta che andare avanti. E facciamola. Oh, Susan, sei una persona speciale. In seguito si complottò e pianificò. Susan, dopo aver ceduto, stabilì che per onore di Ingleside la festa doveva essere qualcosa che neanche la zia Blythe avrebbe potuto criticare. Penso che faremo un pranzo, Susan, così finiremo abbastanza presto e potrò andare al concerto a Low Bridge con il dottore. Cerchiamo di mantenere il segreto per la sua sorpresa. Lei non deve sapere niente fino all'ultimo minuto. Inviterò tutte le persone di Glen a lei simpatiche. A chi si riferisce in modo specifico, signora dottora cara? Beh, quelle che lei tollera, sua cugina Adella Carey di Low Bridge e alcune persone dalla città. E faremo una grande torta di compleanno color prugna con 55 candeline sopra. Che devo fare io, naturalmente. Susan, sai fare la migliore torta di frutta sull'isola. Quello che so è che io sono come Creta nelle sue mani, signora dottora cara. Seguì una misteriosa settimana in cui una segretissima atmosfera di complotto pervase Ingleside. Ognuno aveva giurato di non svelare il segreto alla zia Mary, ma Anna e Susan avevano fatto i conti senza i pettegolezzi. La sera prima della festa, zia Mary tornò a casa da una visita a Glen e le trovò sedute nel solaio, piuttosto stanche al buio. Tutte al buio, Annie? Non capisco come possa essere piacevole stare sedute al buio. Mi dà solo malinconia. Oh, non è buio, è il crepuscolo. E il risultato è una meraviglia estrema. Un'amorevole lotta tra la luce e il buio, disse Anna più a se stessa che agli altri. Oh, suppongo che tu sappia di cosa parli, Annie. E così fai una festa domani? Anna improvvisamente balzò a sedere dritta. Susan era già seduta dritta, non poteva raddrizzarsi di più. Perché, zia? Lasci sempre che venga a sapere le cose dagli estranei, disse zia Mary. Ma apparentemente più con dolore che con rabbia. Noi volevamo che fosse una sorpresa, zia. Non capisco perché si vuole organizzare una festa in questo periodo dell'anno in cui non si può contare sul tempo, Annie. Ah, Anna tirò un sospiro di sollievo. Evidentemente zia Mary sapeva solo che ci sarebbe stata una festa e che questo non aveva alcuna connessione con lei. Io volevo farla prima che finisse la fioritura, zia. Ma indosserò il mio taffetà granata. Suppongo, Annie, che se non l'avessi saputo giù al villaggio, tutti i tuoi amici mi avrebbero sorpresa con un vestito di cotone. Oh no, zia, intendevamo dirtelo in tempo per il vestito, naturalmente. Beh, se il mio consiglio significa qualcosa per te, Annie, e talvolta sono quasi costretta a pensare che non sia così, direi che in futuro sarebbe meglio non tenere cose segrete. A proposito, sapete che in paese dicono che è stato Jem a tirare la pietra attraverso la finestra della chiesa metodista? Non è stato lui, disse Anna con calma. Mi ha detto che non lo ha fatto. Sei sicura, Annie, cara, che non abbia mentito? Annie, cara, ripeté abbassando la voce. Oh, sicurissima, zia Mary, Jem non mi ha mai raccontato una bugia. Beh, ho pensato che dovevi sapere ciò che viene detto. Zia Mary andò via col suo usuale stile maestoso, evitando con gesto sontuoso Gamberetto, che stava coricato a pancia in su sperando che qualcuno gli grattasse il pancino. Susan e Anna trassero un lungo respiro di sollievo. Penso che andrò a letto, Susan, e mi auguro che domani sarà una bella giornata. Non mi piace l'aspetto di quella nuvola nera sopra il porto. Sarà bello sicuramente, signora dottora cara, la rassicurò Susan. L'almanacco dice così. Susan aveva un almanacco che prediceva il tempo e che avrebbe fatto tutto l'anno, e dato che era abbastanza sovente azzeccato, si poteva dargli credito. Lascia la porta laterale sbloccata per il dottore, Susan. Può fare tardi arrivando dalla città. Ci è andato per le rose. 55 rose dorate, Susan. Ho sentito zia Mary dire che le rose gialle sono gli unici fiori che le piacciono. Mezz'ora più tardi, Susan, leggendo il capitolo notturno nella sua Bibbia, si imbatté nel versetto: Metti di rado il piede in casa del prossimo, ond'egli, stufandosi di te, non abbia a odiarti. Mise un rametto di abrotano per segnare il punto e anche in questi giorni, pensò. Anna e Susan si alzarono entrambe di buon'ora il mattino dopo, desiderose di completare gli ultimi preparativi prima che zia Mary fosse in circolazione. Ad Anna era sempre piaciuto alzarsi presto per catturare la mistica mezz'ora prima dell'alba, quando il mondo appartiene ancora alle fate e agli antichi dei. Le piaceva vedere il cielo pallido, oro, rosa, del mattino, dietro la guglia della chiesa, il sottile e trasparente bagliore del sorgere del sole diffondersi sopra le dune, le prime spirali viola di fumo galleggiare sui tetti del villaggio. È come se avessimo avuto una giornata fatta su ordinazione, signora dottora cara, disse Susan compiaciuta mentre arricchiva con noce di cocco una torta glassata di arancio. Dopo la colazione proverò per la prima volta a fare dei nuovi teneri dolcetti e telefonerò a Carter Flagg ogni mezz'ora per assicurarmi che non si dimentichi il gelato e ci sarà tempo per pulire i gradini della veranda. Oh, è necessario, Susan? Signora dottora cara. Ha invitato la signora Marshall Elliott, giusto? Non deve vedere i gradini della nostra veranda diversamente da immacolati. Ma lei, signora cara, dovrà pensare alle decorazioni. Io non sono nata con il dono di disporre fiori. 4 torte! Urrà! Disse Jem. Quando facciamo una festa, disse Susan pomposamente, noi facciamo una festa. Gli ospiti arrivarono a tempo debito e vennero ricevuti da zia Mary in taffetà color granata e da Anna in voile color biscotto. Anna aveva pensato di mettere quello di mussola bianca, ma era una calda giornata estiva e decise diversamente. Molto saggio, Annie, commentò zia Mary. Il bianco, dico sempre, è solo per i giovani. Tutto andò secondo programma, una bellissima tavola apparecchiata con i piatti più belli di Anna e l'esotica bellezza del bianco e viola degli iris. I nuovi teneri dolcetti di Susan fecero sensazione. Niente di simile era mai stato né visto né mangiato prima a Glen. La sua zuppa cremosa era perfetta. L'insalata di pollo era fatta con i polli che sono polli di Ingleside. e Carter Flagg, assillato, mandò il gelato al momento giusto. Susan, infine, reggendo la torta di compleanno con le sue 55 candele accese, come se sopra ci fosse la mortale testa del Battista, marciò e la posò davanti a zia Mary. Anna esteriormente era sorridente e serena padrona di casa, ma aveva cominciato da un po' a sentire uno strano malessere. Anche se tutto sembrava scorrere tranquillo, aveva la convinzione sempre più profonda che qualcosa stesse andando terribilmente storto. Con l'arrivo degli ospiti era troppo occupata per notare il cambiamento che avvenne sul viso di zia Mary quando la signora Marshall Elliott cordialmente le fece gli auguri per il compleanno. Ma quando tutti si furono finalmente seduti intorno al tavolo, Anna si rese conto del fatto che zia Mary era tutt'altro che contenta. Era veramente pallida. Oh, ma non poteva essere arrabbiata. E non disse una sola parola durante tutto il pasto, salvo brusche risposte alle domande che le venivano fatte. Prese solo due cucchiaiate di brodo e tre bocconi di insalata, in quanto al gelato si comportò come se non esistesse. Quando Susan sistemò la torta di compleanno con le sue tremolanti candele davanti a lei, zia Mary inghiottì sonoramente la saliva, ma non riuscì a trattenere un singhiozzo e come conseguenza emise un grido strozzato. «Zia, non ti senti bene?» gridò Anna. Zia Mary la fissò gelidamente. «Abbastanza bene, Annie, notevolmente bene davvero per una persona così anziana». In quel momento auspicabile, le gemelle comparvero portando tra loro il cesto con 55 rose gialle e nel mezzo di un improvviso gelido silenzio gliele consegnarono facendole congratulazioni e auguri. Un coro di ammirazione salì dal tavolo, ma la zia non si unì al coro. Le gemelle spegneranno le candeline per te, balbettò Anna nervosamente, e poi. Vuoi tagliare la torta? Non sono del tutto senile, non ancora, Annie. Posso spegnere le candele da sola. Zia Mary cominciò a spegnerle con deliberata attenzione. Con scrupolosa equità e accuratezza tagliò la torta, poi mise giù il coltello. E ora forse posso essere scusata, Annie. Una vecchia siffatta ha bisogno di riposo dopo tanta eccitazione. E se ne andò. Con il fruscio della gonna di taffetà se ne andò con il colpo sul cesto di rose, rovesciandolo mentre ci sfrecciava davanti. Se ne andò con il clic degli tacchi alti su per le scale. Se ne andò con il bang della porta di zia Mary in lontananza. Gli ospiti interdetti mangiarono le loro fette di torta di compleanno, cercando di trovare il massimo dell'appetito. In un silenzio forzato rotto solo dalla storia della signora Amos Martin che raccontava gravemente di un dottore in Nova Scozia che aveva avvelenato numerosi pazienti iniettando loro germi di difterite. Gli altri, sentendo che quello poteva non essere di buon gusto, non la seguirono nel suo lodevole sforzo di ravvivare l'atmosfera e tutti se ne andarono appena poterono farlo con discrezione. Anna, confusa, si precipitò nella stanza di zia Mary. Zia, ma qual è il problema? Era necessario reclamizzare la mia età in pubblico, Annie? E invitare Adela Carey qui per farle sapere quanti anni ho? Era ansiosa di saperlo da anni. Zia, ma noi intendevamo. Non so quale fosse il tuo scopo, Annie, che ci sia qualcosa dietro a tutto questo. Lo so benissimo, oh, posso leggere nella tua mente, cara Annie, ma io non cercherò di scoprirlo. Lascerò che tu te la veda con la tua coscienza. Oh, zia Mary, la mia sola intenzione era di fare una bella festa per il tuo compleanno. Mi dispiace tanto. Zia Mary portò il fazzoletto agli occhi e sorrise coraggiosamente. Certo che ti perdono, Annie, ma devi capire che dopo un deliberato tentativo di danneggiare i miei sentimenti non posso più star qui. Ma era una cosa amichevole, non credi? Zia Mary sollevò una lunga, sottile mano nodosa. Non dobbiamo discuterne, Annie, voglio pace, solo pace. Uno spirito ferito, chi riesce a sopportare? Anna andò al concerto con Gilbert quella sera, ma non si poté dire che si divertì. Gilbert prese l'intera faccenda proprio come un uomo, come avrebbe detto Miss Cornelia. Mi ricordo che era sempre un po' permalosa circa la sua età. Papà la punzecchiava. Avrei dovuto avvertirti, ma mi è scivolato dalla memoria. Oh, se vuole andarsene, non provate a fermarla. E infatti si astennero per la parentela dall'aggiungere che liberazione. Non se ne andrà, non siamo così fortunati, signora dottora cara, disse Susan molto incredula. Ma per una volta Susan si sbagliava. Zia Mary se ne andò il giorno dopo, indulgente con ognuno, nelle sue esalate parole d'addio. Non prendertela con Annie, Gilbert, disse lei magnanimamente. L'ho assolta per il suo totalmente intenzionale insulto. Mai la biasimerò per quei segreti nei miei confronti, ma ha un animo sensibile come il mio. Nonostante tutto, mi è sempre piaciuta la povera Annie, terminando con l'aria di confessare una debolezza. Ma Susan Baker è un'altra questione. La mia ultima parola per te, Gilbert, è metti Susan Baker al suo posto e fai in modo che ci resti. Nessuno riuscì a credere in un primo momento a quella fortuna. Poi, come svegliandosi, si resero davvero conto che zia Mary se n'era andata, che era possibile di nuovo ridere senza ferire i sentimenti di nessuno, aprire tutte le finestre senza che nessuno si lamentasse delle correnti d'aria. Consumare un pasto parlando di cose che piacevano particolarmente, senza sentirsi responsabili di produrre il cancro allo stomaco della zia. Non ho mai salutato un ospite tanto velocemente e così volentieri, pensò Anna, con mezzo senso di colpa. È bello poter essere se stessi di nuovo. Gamberetto si pulì meticolosamente la sensazione che dopo tutto c'era un certo divertimento nell'essere un gatto. La prima peonia irruppe fiorendo in giardino. Oh, il mondo è proprio pieno di poesia, non è vero, mamma? Disse Walter. Sì, e sarà proprio veramente un gradevole giugno, predisse Susan. Lo dice l'almanacco. Ci saranno alcune spose e probabilmente almeno due funerali. Non sembra strano poter di nuovo respirare liberamente? Ah, quando penso che ho fatto tutto questo che era in mio potere per impedire che si organizzasse una festa di compleanno. Signora dottora cara, mi rendo conto che c'è la provvidenza che prevale su tutto. E non le pare, signora dottora, che oggi il dottore si gusterebbe alcune cipolle con la sua bistecca?